e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Le 2.43 del mattino, è sempre sabato 23 giugno, quasi al termine di questa lunga serata, di questa altra lunga nottata al convento di Lunato. Il nostro locale è bello perché è vario, ma nel vero senso della parola ci sono persone che vengono da tante parti d'Italia, nord Italia, centro Italia, e tanti motivi per fare festa. Diciamo che il denominatore comune è la voglia di fare festa, ma i motivi sono diversi, e quindi approfittiamo di questo momento e di questo spazio, dopo aver intervistato tanti sposi e tante spose, anche per festeggiare e ricordare un momento importante della vita di tanti di noi, e un momento importante che una ragazza sta vivendo in questo momento, in questi giorni. Diamo il benvenuto a Elisa. Elisa, benvenuta. Allora, da dove vieni? Da dove ci raggiungi? Da Piancamuno, in provincia di Brescia. In provincia di Brescia, zona Valcamonica, mi dicevi prima. E Piancamuno è famosa per... c'è un motivo per cui è famosa? No, veramente, è un nome che mi dice qualcosa, ma formaggi, no? No, diciamo che il dolce tipico sono i fiadù, ma... I fiadù? Tipo, come sono fatti? Cosa sono? Sono dei mega ravioli. Mega ravioli, ok. Di mandorla, amaretto, sì? Veramente buono. Ah, però vedi come ne parla con la papilla gustativa, già è già, già emozionata, ne parla proprio con passione. Bene, bene. E sono tipici proprio di quella zona lì? Sì, proprio del nostro. Hai nonne, parenti, mia che li sanno fare? Ha un panificio. Ah! In questi casi una sorta di pasticceria, perché proprio fa dei fiadù spettacolari. Sì, quindi fa anche appunto pasticceria secca, non solo pane. Sì. Ah, bello peraltro il panificio, è sempre a contatto con la gente, sempre molto dinamico, esatto, come lavoro. Diciamo che è al centro della nostra cittadina. Eh sì, e poi anche al centro dell'attenzione, perché è un posto che è frequentato da tutti e in cui c'è tantissima moneta, perché c'è sempre bisogno della moneta. È vero. Quello non lo so, diciamo. No, è vero, perché se parli con un panettiere l'unica cosa che ti dice è mi serve moneta, mi serve sempre moneta. Infatti io ho, come dire, ho organizzato tante feste, tante cose, e avevo questa sorta di accordo non scritto con il panificio che tutto l'incasso di moneta noi lo davamo a lui e lui in cambio ce li cambiava in banconote, perché a lui serviva sempre la moneta per il resto. Quindi io ho questa immagine dei panettieri. E dicevamo della tua serata importante, del tuo momento importante, perché dici un po' che succede in questi giorni o magari stasera stessa? È stata tutta una sorpresa, io non mi aspettavo niente, e mio papà insieme a mio moroso hanno organizzato questa festa. Ah, e... pensa che bello, quindi diciamo io... i due uomini della tua vita in combutta. Esatto, e hanno organizzato questa festa sorpresa dei 18 anni che non dimenticherò. Oh, i tuoi 18 anni, che bello, e anche tuo papà è qui, o lui è stato solo nella parte organizzativa? Ha detto che è troppo vecchio, quindi... È troppo vecchio, si sentiva troppo vecchio. Bene, bene, come si chiama invece il tuo ragazzo? Alessio. Alessio, quanti anni ha lui? 20, poco più di te, ci sta, un paio d'anni di differenza è una buona media. Vi conoscete da tanto? Quasi 2 anni. Ah, ok, quindi dai, si sta cominciando a creare qualcosa di importante. Bene, bene, allora 18 anni quando? Il 22 giugno. 22 giugno, sì. Venerdì. Ok, venerdì, perché poi adesso è già un po' domenica, ma rimane sabato, esatto. Quindi siamo sempre tutti sfasati, è normale. Venerdì 22 giugno, quindi hai fatto i tuoi 18 anni. Com'è andata la giornata? Bene, normale, no? Anche perché quel giorno è l'anniversario di matrimonio dei miei. Allora hai voglia, festone. Abbiamo festeggiato, diciamo, la doppia festa. Eh sì, cosa avete fatto? Eri no. Già a casa da scuola, sì? Sì, sì, quindi qualcosa di semplice. Ne hai approfittato. Niente, tanti sorrisi. Oh, mi piace questa tua dimensione conviviale e familiare. Tra l'altro dovete sapere che Elisa ha sfoggiato un vestito rosso fiammante, insomma, per non farsi riconoscere, per non farsi mancare nulla, per far capire che era lei la protagonista di questa serata. E, in realtà non lo sapevo, però va bene. Vabbè, perché hai messo comunque il vestito a prescindere? In realtà mi avevano detto che oggi sarebbe stata una festa così... in preparazione alla festa. Ah, una pre-festa. E tu per non... cioè, insomma, per essere... per non mettere lo stesso vestito, ho messo un vestito rosso, che... Sì, no, e comunque... Per rosso è il mio colore preferito. Ah, il tuo colore preferito. Bene, bene, mi fa piacere. No, dicevo, comunque pronta a qualsiasi evenienza, perché ti sei, esatto, messa elegante e pronta ad affrontare qualsiasi tipologia di serata. Allora, però, non sei sola, immagino, a parte il tuo ragazzo, il tuo papà, che ti hanno organizzato la festa. Chi hanno coinvolto in tutto questo? Ci sono una serie di miei amici, ci sono delle compagne di classe, mie cugine, ci sono dei miei amici conosciuti da poco.